Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Davide Vannoni, contestato inventore del metodo Stamina contro le malattie neurodegenerative, è stato arrestato. I carabinieri del NAS si sono presentati questa mattina nella sua casa a Torino. L'accusa per il padre di Stamina è quella di aver continuato all'estero ad applicare il contestato metodo, dichiarato completamente inefficace e che già gli era costato una condanna. Secondo questa più recente inchiesta della Procura di Torino, il sedicente terapeuta avrebbe adescato i nuovi pazienti, tutti affetti da patologie neurodegenerative incurabili, attraverso i social network e li avrebbe convinti a farsi curare in una clinica di Tbilisi, in Georgia. Decine le persone che avrebbero accettato di sottoporsi al metodo, tutte disposte a pagare fino a 30.000 euro ogni infusione di staminali. Perché questa mattina voglio parlare dell'ignoranza generale, ma direi quasi genetica, che ancora c'è nel nostro paese rispetto a quella che è l'evidenza scientifica. Perché mi ero già espresso attraverso altri canali sul caso Vannoni, stupendomi non tanto del fatto che lui ci si sia cascato, il suo mestiere è vendere il metodo Stamina e prova in tutte le maniere a continuare a venderlo, anche nonostante sia stato condannato, nonostante avesse patteggiato, si fosse impegnato a non farlo più, avesse accettato la sentenza per cui il metodo Stamina non ha nulla di scientifico, non cura, anzi è dannoso, ma sul fatto che persone partivano dall'Italia con il fardello della loro disperazione, dei loro malati, molte volte spendendo migliaia e migliaia di euro per fare dei trasporti speciali, portare il malato con l'aereo, arrivando a pagare, come avete sentito, fino a 27-30 mila euro per farsi fare una cura che era stata scientificamente sconfessata. Ne avevo parlato, ma dopo 30 secondi che girava in rete il mio editoriale, già mi scrive Soriana Blu, non so chi sia, dice: ma lei dice questa cosa qui, ho argomenti per confutarla. Ci sono 50 medici che con esami strumentali dicono che Vannoni ha ragione. Guardi questo video, e mi segnala un altro dei tanti video che stanno in internet che certificano l'attendibilità di quello che la scienza ha dichiarato inattendibile. La riflessione la faremo anche nello specifico su Stamina, sulla storia di Vannoni, su questa vicenda che sembra insolubile, non tanto perché una persona tenta nuovamente di compiere un'azione che è un'azione delittuosa, un'azione per cui è stato già condannato, quello evidentemente è quello che reputa la sua professione, ma perché ancora ci sono persone che continuano a crederlo una sorta di perseguitato dalla scienza ufficiale, perseguitato dalle grandi multinazionali, come se ci fosse una verità scientifica alternativa che galleggia in dei circuiti semiclandestini, come se ci fosse una sorta di resistenza a un grande meccanismo vessatorio di ignominia, di falsità. Io questa mattina vorrei, se possibile, per l'ennesima volta, se lo facciamo spesso, trovare persone che ci dicano in cosa consiste il metodo scientifico, cos'è la verifica scientifica, cos'è l'evidenza scientifica. Perché l'idea mia, quello che già mi ero espresso questa mattina, che nel nostro paese ci sarebbe bisogno di un'alfabetizzazione radicale, di base, nei confronti di quella che è la scienza. Ci vorrebbe qualcosa di simile a quello che faceva il maestro Manzi negli anni 60, in cui gli italiani ancora non sapevano leggere e scrivere. Oggi probabilmente gli italiani leggono e scrivono tutti. Tutti sono capacissimi di scrivere messaggi nei social network, di mandare dei tweet acidi per chi porta alla riflessione sulla razionalità, ma non hanno le basi per avere una visione laica, scientifica della realtà. Perché? Perché siamo ancora inquinati dalla superstizione, dalle credenze, dal sospetto, dall'idea che ci sia un grande complotto, ma soprattutto sul fatto che una persona, perché ha i lunghi capelli sciolti sulle spalle, perché ha l'aspetto vagamente da persona illuminata, possa avere una verità diversa e sovrapponibile, anzi preferibile rispetto a quella che è una comunità scientifica, che è fatta di persone che studiano in quello specifico, che si controllano a vicenda, che riferiscono a vicenda, che pubblicano pubblicano soltanto quando le loro pubblicazioni sono verificate e controllate da quelli che lavorano come loro. Quindi è un sistema che in sé dovrebbe dare una sicurezza. Credere nella scienza non significa rinnegare tutte quelle che sono le proprie credenze, non so, metafisiche. Uno può benissimo avere una visione religiosa della vita, ma pensare che quando c'è una malattia uno può anche chiedere il miracolo, può anche pregare, può accendere i ceri, può fare i pellegrinaggi, nessuno glielo impedisce, ma quando paga qualcuno per avere una cura deve essere qualcuno che sia confortato dalla sicurezza che si muove in ragione della scienza, non in ragione di una sua sorta di dono carismatico di poter guarire le persone. 800 24 00 24, credete più al medico o allo sciamano? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Il mio caso risale al 2008, quando io mi rivolsi a Vanoni tramite passaparola. Lo contattai per telefono, lui mi disse che non bastava l'infusione per guarire completamente. Io ci credevo, speravo. Poi quella famosa vicenda di San Marino, che fece l'infusione, un'ora dopo mi ritrovai in ospedale con delle crisi epilettiche che non avevo mai avuto, che adesso prendere medicina ancora adesso, io dico le famose crisi. Dopo due giorni rientro in Italia, a Torino, sono andato da Vannoni a chiedere spiegazioni. Lui la prima cosa mi disse che la mia crisi era dovuta alla mia malattia, all'ictus, che non c'entrava niente con le cellule staminali. E mi ha tirato fuori un foglio, una cosa liberatoria, dove io diceva che la lettera che io avevo dichiarato il FAS a San Marino, ai medici. E io avrei dovuto firmare questo famoso foglio e fargli un fax, però l'indomani mi fa: portami i soldi. Voi direte, è facile approfittarsi di questo signore, è facile turlupinarlo, è facile spillargli i soldi, ma soprattutto perché questo signore chiede dei ragguagli su una questione tipo clinica a Vannoni, laureato in scienza della comunicazione, che non è nemmeno un medico? Cosa porta questo signore, di cui, poverino, si capisce, si intuisce immediatamente, non che voglia essere un giudice lombrosiano dell'espressione, ma si capisce che è una persona che non ha strumenti raffinatissimi di scelta. Evidentemente occorre quello che sto dicendo da qualche ora, occorre che ci sia una profonda, radicale, importante, ma che la faccia al servizio pubblico realmente, invece di continuare a chiamare i cialtroni a parlare di questioni scientifiche, campagna di informazione. Occorre che si riproponga quello che era il maestro Manzi negli anni 60, che educò gli italiani a leggere e scrivere, quando ancora avevamo delle sacche di analfabetismo importanti. Oggi abbiamo una diffusa, ma non soltanto nelle persone con pochi strumenti culturali, anche nelle istituzioni, anche dal punto di vista delle persone che dovrebbero essere i difensori della scienza, della vera medicina. No, esiste un'ignoranza totale, bisogna ricominciare a gettare le basi su quella che è la conoscenza scientifica. Roberto Burioni, buongiorno. Buongiorno. Roberto Burioni è ormai diventato un personaggio odiato da molti, ma anche apprezzato da molti altri. È medico e professore ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ma passa in secondo piano quelle che sono, diciamo, le sue credenziali scientifiche. Burioni è quello che fa casino in rete, che ci ha messo la faccia, che è diventato, diciamo, il primo sbarramento nei confronti della cattiva informazione scientifica. Lei, Burioni, come si spiega il fatto che centinaia di persone spendessero cifre importanti, fino a 30.000 euro, per andare in Georgia per farsi fare qualcosa che era scientificamente stato sconfessato, anche in maniera molto palese? Da medico devo dire che è molto facile approfittarsi delle persone malate, delle persone disperate, delle persone che hanno magari un bambino per il quale la medicina non può fare nulla, perché a volte purtroppo la medicina è impotente, la scienza è impotente. Allora chi racconta la bugia, chi accende una falsa speranza, non è sullo stesso piano nella capacità di convincere rispetto a chi dice la dura verità. Non posso fare nulla. La scienza delle volte non può fare nulla, la medicina non può fare nulla. E allora in quel caso il paziente o anche il genitore di un piccolo paziente è immensamente debole, è vulnerabile, ognuno di noi potrebbe esserlo, seppure molto diciamo istruito. È però quello che è grave è tutto quello che è intorno, perché quelli che non sono coinvolti dovrebbero avere la saggezza di distinguere il cialtrone dallo scienziato serio. Il giornalista che fa un servizio deve avere la responsabilità di non accendere false speranze. L'ordine dei medici, la giustizia. Queste, beh, l'ordine dei medici si sta muovendo, è stato espulso il primo medico antivaccinista. Qualcuno dice che è un atto di imperio e di violenza, altri dicono finalmente si sono svegliati. Ma noi non possiamo tollerare che un pompiere dica che si spegne un incendio col cherosene, non possiamo tollerare che un poliziotto dica che si può guidare ubriachi o che un giudice dica che va bene rubare. Allo stesso modo non è tollerabile che un medico racconti ai propri pazienti che fumando durante la gravidanza si fa il bene del bambino, oppure che i vaccini sono pericolosi. Io non mi riferisco al caso singolo che non conoscono, ma questa gente è in malafede, non può fare il medico, deve essere radiata come viene radiata in tutti i paesi civili. È un atto che è dovuto a difesa della dignità della mia e della nostra professione e a difesa soprattutto dei pazienti. Anche perché dietro a Vannoni comunque dei medici c'erano, persone comunque c'erano, perché alla fine il primo impatto, il primo contatto che hanno le persone che poi si rivolgono al metodo magico, al medico taumaturgico, al cialtrone comunque, sono dei medici che poi indirizzano le persone, o li mandano a fare le staminali all'estero o danno a loro l'indirizzo per andare a fare quel particolare tipo di cura. Sono degli avvoltoi che si approfittano in maniera, secondo me, abominevole della fiducia che i pazienti malauguratamente gli affidano e che non dovrebbero potere esporre sul proprio camice la parola medico. Io posso anche andare da una fattucchiera, però so che è una fattucchiera, posso andare a farmi l'oroscopo, però so che è un astrologo, quindi però non posso andare da un medico che mi dice che mi devo curare secondo il segno zodiacale, perché quello sta sfruttando la dignità, l'autorevolezza che gli deriva dall'appartenenza a un ordine per ingannarmi, e questo non gli deve essere concesso. Allora, le leggo mentalmente, Burioni, 3 sms, con lei sfondo porte aperte perché sa esattamente quali sono le reazioni, 3 sms da come abbiamo cominciato. Allora, primo, Saputello: la scienza non è statica. Ma chi ha detto che è statica la scienza? Il metodo scientifico in sé proprio non ha nulla di statico, si rimette continuamente in discussione. Secondo, entriamo in merito, Nicoletti: si è appecoronato al sistema, la medicina ufficiale non ti cura, è solo un gigantesco affare per spillare soldi, per questo la gente crede agli stregoni, quanto ti pagano le case farmaceutiche? Poi, sciamani, gli sciamani di oggi saranno gli scienziati di domani. Può anche essere. Poi, quando sento Radio 24 schierata contro vaccini e medicina alternativa, si spessiscono i sospetti sul cameratismo tra Confindustria e farmaceutiche. Diego da Roma. Lei è abituato a questo tipo di reazione, figuriamoci. La routine, io devo dire che queste professioni di diffidenza nei confronti della scienza le vorrei vedere espresse, non dico, perché non sono cattivo, quando uno ha i primi sintomi di un infarto, ecco, e corre al pronto soccorso implorando la scienza di fare qualcosa, ma mi sarebbe sufficiente che questi che dicono che la scienza è un complotto facessero questa formazione sulla sedia del dentista, rifiutando l'anestetico, dicendo: no, la scienza non ci credo, non mi faccia l'anestesia. Non ne ho mai trovato uno. Ah, assolutamente, una volta era una botta in testa. L'alternativa sciamanica è quella, una martellata in testa o la bottiglia di whisky come nei film del Far West. Sentiamo qualche telefonata. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno ascoltatori. Niente, sono d'accordo con tutti i punti che avete adesso detto, ma volevo estendere, se possibile, questa è la mia idea, anche al discorso dell'omeopatia, che l'unica scienza, l'unica cosa che della scienza che dice che parla dell'omeopatia è dell'effetto parallelo tra il risultato omeopatico e quello dell'effetto placebo. Quindi secondo me è la stessa cosa, considerando che i prodotti farmaceutici e i prodotti parafarmaceutici omeopatici hanno dei costi di produzione mostruosamente più bassi, non hanno tutti i controlli che c'è nel mondo farmaceutico. Quindi c'è una speculazione, a mio avviso, maggiore rispetto a quello che c'è nelle ditte farmaceutiche. Lei, Roberto, sfonda a porta aperta. Io so che conosco bene il mondo dell'autismo, quanto nell'autismo chi spaccia cure per l'autismo attraverso farmaci omeopatici, addirittura c'è chi vende dei vaccini a base alternativi a base omeopatica, cioè il vaccino fatto con l'acqua del rubinetto che dovrebbe curare. Vale anche questa cosa. Burioni, sull'omeopatia qualcosa da dire? È un grosso dilemma questo, perché ancora ci sono persone che pensano che l'omeopatia sia un'alternativa alla medicina. Di nuovo c'è gente che crede all'oroscopo, che crede alle fattucchiere. L'omeopatia, se è la scienza che fa funzionare il cellulare col quale io le sto parlando, che fa funzionare il suo trasmettitore della radio, che fa funzionare la combustione delle automobili che circolano, nella quale l'ascoltatore che ci ha telefonato, ebbene, se quella chimica e quella scienza sono vere, nelle medicine omeopatiche non c'è nulla. Per cui il nulla non può fare qualcosa, entriamo nella filosofia, per cui è un effetto placebo e anche questo è distogliere i pazienti da cure efficaci per dargli il nulla, che ovviamente non funziona, perché poi tutte le volte che si studia con rigore, perché questo che la gente non capisce, che il metodo scientifico è rigore, non è il guardare, prendere una pasticca e vedere se sto meglio, è tutta un'altra cosa che permette alla nostra mente di non ingannarsi, è fatto in doppio cieco, è fatto per tentare di annullare i difetti umani che possono essere nel giudizio dei pazienti e dei medici, è rigore il metodo scientifico. Sentiamo Alberto, Alberto buongiorno. Buongiorno Gianluca, noi tra l'altro ci conosciamo. Io ho ascoltato molto interessato tutte le argomentazioni del medico, però è un po' controversa la cosa. Faccio un esempio, io sono 15 anni che non assumo antistaminici e mi curo con un medicinale omeopatico e funziona. Dall'altra cosa, nella vita di tutti si scoprono anche cose interessanti, per esempio il fatto che ci siano due filosofie nell'omeopatia, l'omeopatia semplificata e l'omeopatia complessa, ma qual è quella giusta? Non si sa. Giusta, cioè, per lei individualmente, poi le risponde il dottor Burioni, professor Burioni con maggiore cognizione di causa, dico, se lei fa bene continua a prendere il farmaco omeopatico, ma non è questa una risposta di tipo scientifico, dovrebbe far bene a tutti quelli che hanno il suo stesso problema. Anch'io in fase della mia vita precedenti avevo mal di schiena, prendevo le pilloline, mi passava il mal di schiena, sentivo un benefico calore, poi a un certo punto ho capito che era esattamente come bersi l'acqua della Madonnina di Lourdes che mi dava mia bisnonna, capito? La stessa cosa era, mi faceva bene probabilmente, ma non aveva nulla di scientifico e di medico. Valentina. Buongiorno. Secondo me il problema principale sul fatto delle persone che ricorrono agli sciamani è che non c'è più un rapporto tra il medico di base, quello principale a cui una persona si riferisce, e il paziente, perché ormai il medico della mutua vero, quello che ricorda la mia nonna, la quale si ricorreva sempre, non esiste più. Ormai il medico, come lo definiscono in tanti, è colui che ti fa la ricetta. Uno va dal medico della mutua, ma non ha una vera risposta, perché non ti toccano nemmeno. E quindi non avere più un rapporto con la medicina, con una figura di riferimento, ci fa andare verso altre figure che si possono incontrare per il web, piuttosto che per sentito dire amici di amici. Secondo me è questo il problema. Ricordo che in altre puntate, sempre con il professor Bruno, abbiamo detto la stessa cosa. Vediamo allora di fare un punto su queste due telefonate, se possibile, Roberto Bruni. Prima ipotesi, poi vede, tutti diventano esperti. Il signore che gli passa l'allergia con la cura omeopatica dice, allora perché non dite che è una cura? È difficile convincere quel signore che in realtà può essere che lui faccia bene, ma farebbe bene magari anche bersi, non so, un bicchiere di vino, qualcosa del genere. Quello che ha detto il signore è quello che noi scienziati chiamiamo, diciamo, aneddoto. E non è una cosa di poca rilevanza, perché può succedere che una persona, prendendo la sostanza X, si sente meglio. Questa è chiamata un'evidenza aneddotica che non deve essere trascurata, ma che non ha nessuna valenza scientifica e deve essere il punto di partenza per uno studio rigoroso. Come si fa lo studio rigoroso per vedere se la sostanza X fa bene per l'allergia dei pazienti? Si prendono 200 pazienti allergici, più o meno nello stesso modo, a 100 gli si dà la farmaco e a 100 gli si dà invece un placebo. E poi i pazienti non sanno se hanno preso il farmaco e il placebo, e i medici che li giudicano non sanno se hanno preso il farmaco e il placebo, perché anche il medico può essere influenzato. Uno può desiderare che un farmaco funzioni, oppure può essere diffidente nei confronti di un nuovo farmaco. È umano che il giudizio sia alterato, lo diceva già Ippocrate, il giudizio è difficile. Per questo uno studio serio viene fatto in doppio cieco, quindi si parte dall'osservazione del paziente che dice, io ho preso la sostanza X e sono stato meglio con l'allergia, e poi però bisogna trasferire questa osservazione, che non ha alcuna valenza scientifica, nel rigore del metodo scientifico, che deve essere fatto con valenza statistica e soprattutto in doppio cieco. Il paziente non sa se ha preso il farmaco o un placebo, il medico non sa se il paziente che sta visitando ha preso un farmaco o un placebo. Così si fa Non basta dire io ho preso la medicina e sono stato meglio, perché altrimenti io potrei dire che la vittoria della mia squadra del cuore mi migliora l'umore. Ecco, però non è che è una cosa personale, non è una cosa scientifica. La scienza è rigore, la scienza è metodo e purtroppo non è immediatamente percepibile da tutti. Questo forse dovremmo spiegare, che costruire una bilancia non è semplice, bisogna saperlo fare e pesare, costruire una bilancia che pesa l'effetto di un farmaco, di nuovo, non è qualcosa di semplice. Io l'ho preso e sono stato meglio, mio figlio l'ha preso ed è stato meglio, non è sufficiente. Può essere un punto di partenza, ma non è assolutamente un punto d'arrivo. Ci dobbiamo fermare un istante, dottor Burroni, poi riprendiamo con lei. La riflessione che le propongo da fare fra pochi secondi è esattamente quello. A questo punto, quello che ci continuiamo a dire lei ogni volta che ci parliamo alla radio o che lei scrive nei suoi spazi di espressione o che qualcuno illuminato dice, non può diventare materia obbligatoria di alfabetizzazione, cominciando a partire dalle nuove generazioni, visto che ormai quelle adulte sono perse da questo punto di vista e rimarranno con le loro convinzioni. Non bisogna cominciare a fare un'operazione culturale profonda e radicale di cultura scientifica nel nostro paese? Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. 800240024, partendo dal caso Vannoni, oggi stiamo, se possibile, cercando di lanciare l'idea di una campagna di alfabetizzazione radicale che interessi non soltanto le nuove generazioni, ma anche quelle attempate, se possibile. Vi contraddico quanto ho detto poco fa, perché in molte amministrazioni pubbliche, in molte istituzioni, in molti ospedali, molti medici ancora probabilmente hanno bisogno che qualcuno rinfreschi loro le idee su cosa sia l'evidenza scientifica. Parliamo con il professor Roberto Burioni, che è un professore ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ormai diventato un personaggio pubblico, perché è quello che più mette la faccia nella difesa dei principi del metodo scientifico. Cosa ne pensa Burioni di quello che sto dicendo? Che essere ormai, non si può continuare a fare la battaglia sui blog o sulle pagine dei giornali quando danno spazio. Bisogna che ci sia un impegno generale, ufficiale, di cominciare a mettere, forse magari in alternativa, se si vuole, ad altre discipline molto belle, molto utili, molto formative, però se il tempo è quello, anche l'informazione scientifica reale, concreta. Ma certo, la priorità è chiaramente quella dei professionisti. Non è tollerabile che un medico non conosca il metodo scientifico e allo stesso modo non è, allo mio giudizio altrettanto, non è tollerabile che un giornalista non sappia scegliere le fonti, cioè non sappia distinguere la bugia dalla verità scientifica, che è vero che è parziale, ma è quello che ci permette di andare avanti, di vivere meglio, di fare. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Guardi Burioni, in molti casi, di molti colleghi, fra poco ne sentirò uno di quelli che stimo di più, non è tanto ignoranza, è che in realtà dentro, nell'anima, sono convinti di fare qualcosa di utile per una sorta di ricerca della verità. Quello è lo sbaglio fondamentale, che è molto più grave. L'ignoranza si può, sull'ignoranza si può intervenire, ma sulla condizione di fondo, che in fondo sì, qualcosa c'è, allora è difficile intervenire, è proprio una questione ideologica. E no, questo infatti quello che lei dice è molto giusto, bisognerebbe alfabetizzare, anche perché, vede, chi ha la nostra età, quando era un ragazzo, se voleva sapere cos'è un vaccino, prendeva l'enciclopedia, e nell'enciclopedia non ci scriveva il primo cretino, nell'enciclopedia ci scriveva una persona esperta, una persona con una reputazione, una persona che aveva studiato. Invece il ragazzo oggi che vuole sapere che cos'è un vaccino accende internet e su internet ci scrive, purtroppo senza alcun filtro, il primo cretino. Le parole di chi non sa nulla e di chi studia da una vita sono esattamente allo stesso piano, anzi chi non studia ha più tempo per dire scemenze. Quindi paradossalmente tutta questa disponibilità di informazioni diventa pericolosa se dentro le persone non ci sono gli strumenti culturali per distinguere quello che è una cosa vera e quello che invece è una sciocchezza senza alcuna base. Per cui diciamo che questo cambiare del mondo che noi dobbiamo osservare e accettare rende ancora più importante quella alfabetizzazione di cui lei ha appena parlato. Allora, il problema dell'informazione oggi è che si è persa la fiducia nei mediatori, un po' come i medici. Prima mi diceva l'ascoltatrice, ma i medici non sono più che lì una volta, nemmeno ti guardano, ti rispondono al telefono. Perdiamo fiducia nei medici, ci rivolgiamo agli sciamani. Perdiamo fiducia nei mediatori di informazione, quelli che dovrebbero avere comunque un mandato per mediare l'informazione, e quindi ci si affida naturalmente a chiunque possa scrivere nei blog, come la signora che mi ha scritto questa mattina su Twitter un secondo dopo aver visto il mio piccolo video sul sito web della Stampa, per dire, ma lei non conosce, mi manda altri video. Uno dei mediatori di informazione che più stimo, non perché è collega del mio stesso giornale, perché leggo da sempre i suoi pezzi, è Nicolò Zancan, che è giornalista della Stampa. Nicolò, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Tu anche questa mattina ti sei espresso sul fatto Vannoni, però vorrei che dalla tua esperienza venisse fuori un po' di racconti di quello che è il backstage di tutte queste notizie. Tu che poi vedi di persona, conosci pazienti delusi, vedi le persone che fanno i viaggi della speranza, racconta quali sono le leve emotive che poi si compiono su queste persone e le carenze comunque del sistema di informazione per cui queste persone continuano a pensare che esistano una doppia verità, non una verità su questo, diciamo, inconfutabile, misurabile con gli strumenti scientifici che a loro volta possono essere ridiscussi ogni volta. Io credo che sia proprio la parola ad essere in crisi, addirittura più dei mediatori e della scienza. Cioè, noi una volta, quando avevamo un virgolettato di un magistrato o faticosamente entravamo a casa di una vittima e ci facevamo raccontare la sua storia, uscivamo convinti di avere una parola con un valore. Mi sono reso conto che ormai tutto è contendibile, tutto si può discutere. Non dico che i verbali siano sempre dalla parte della ragione, ci sono anche degli errori e bisogna saperlo, però ovviamente quando uno intervistava ai tempi dell'inchiesta sul caso Stamina la senatrice a vita Elena Cattaneo pensava di mettere così un servizio buono per il lettore di parlare con una delle persone che meglio conoscono questo argomento. Ma è proprio la parola essere in crisi, perché ieri quando è successa quella cosa, io ho fatto un piccolo video, un commento per il giornale, mi hanno risposto a delle cose strampalate che partivano dal caso Stasi al caso Amanda Knox. Cioè, è come se tutto fosse sempre un grande calderone, certo. Un grande calderone, cioè non si può più ragionare su nulla in modo oggettivo. Ti hanno detto servo delle multinazionali, servo delle multinazionali. Cosa scrivete questo? Voi non capite, state facendo l'economia. No, calma. Parliamo del fatto che c'è stata una condanna, tra l'altro patteggiata a 22 mesi da Vannoni. Patteggiamento, certo, non vuol dire ammissione di colpevolezza, ma vuol dire che cerchi una scorciatoia e dici delle cose. Sì, ho fatto quello che mi avete detto. Non bastava dire che lui non è un medico. Io quando scoprì che Vannoni non era un medico, ma che stava in uno scantinato dove facevano ricerche di mercato. Scienza della comunicazione è il suo titolo di studio. Esatto, faceva ricerche di obiettivamente, mercato. Obiettivamente la conosce bene, perché se no non staremmo qui a parlare io e te. La scienza della comunicazione, perché se no non staremmo qui a te a parlare se non fosse convincente. Gamba, sicuramente, certamente, come tutti. Avrà sicuramente questa capacità, ma secondo me sfrutta questo avvelenamento totale dei pozzi del momento storico, che è un problema secondo me più vasto. Io non ricordo bene come andò con Di Bella, ero troppo giovane, non l'avevo seguita, ma mi pare che a un certo punto, anche se alcuni hanno continuato, è stata un po' ricostituita dalla verità scientifica. Sì, Di Bella rispetto a Vannoni è che per un periodo ebbe anche il plausio dei media ufficiali, andava in televisione perché era bello quel signore bianco, curvo, sembrava illuminato da una sorta di sapere che gli altri non avevano, come Vannoni ha i capelli lunghi e la barba da profeta. L'aspetto esteriore conta molto in questo, sai. Non lo metto in dubbio, però appunto... Non è un medico, faceva ricerche di mercato e aveva un call center. Il suo primo laboratorio è in un scantinato. La sua famoso metodo Stamina, che già è sbagliato chiamare metodo Stamina perché non ha nulla del genere. Non è un metodo, è stato in parte copiato da Wikipedia, da altre persone che avevano fatto una cosa sbagliata. Cioè, allora se tu inizi a mettere insieme tutte queste cose e poi ci metti una commissione parlamentare, ci metti gli scienziati, poi ci metti ci metti una condanna in primo grado per truffa e ci metti una serie di elementi, una volta credevi di poter aver ricostituito un argine. Ieri scopriamo che invece quell'argine non è stato ricostituito, cioè che c'è qualcuno che purtroppo ancora ha pagato 30.000 euro per fare viaggi della speranza, andando in posti dove delle infermiere vestite da infermiere erano in realtà delle altre persone, c'è chi dice delle badanti, c'è chi dice delle signore delle pulizie, cose che abbiamo già visto, già raccontato. Ma poi quando tu riprovi a raccontare la stessa storia, ti chiamano e ti dicono, ma perché lo fai? Perché hai servizio di chi sei? E questo è il vero, vero veleno di questi giorni. Ma anche perché non c'è una comunanza di intenti istituzionale su questo. Se ancora ogni tanto qualcuno chiede dei luoghi ufficiali, istituzionali, della Camera o del Senato per parlare di cialtronerie, dicendo che in realtà è libertà di informazione su dei perseguitati, questa cosa andrà avanti ancora. È che purtroppo c'è una radicata credenza di non essere esattamente la scienza un principio che comunque vada difeso. Questo è il problema del nostro paese. Sentiamo Fabrizio un attimo. Fabrizio. Salve. L'ascolto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io ho un esempio molto simile di questa cosa, di questo fatto della mancanza di evidenza scientifica. Secondo me, ad esempio, la credenza che la Terra è piatta. Basta una breve ricerca. Cosa fa Fabrizio di professione? Io sono un dottorando di ricerca, sono negli ultimi 6 mesi, io mi occupo di fisica teorica e ultimamente qualche lavoro di medicina sto facendo. Lei è uno scienziato a tutti gli effetti. Statistica. È uno scienziato. E non ancora, sto per iniziare questa carriera, si spera. E veramente ho difficoltà a spiegare l'utilizzo del metodo scientifico, la procedura del peer review alle altre persone. E un esempio secondo me clamoroso è che più di 300.000 persone sono iscritte alla Società per la Terra Piatta. I piattisti, certo. Flat Earth Society, quando qualsiasi evidenza sperimentale contro la Terra è piatta. E secondo me più che affabilizzazione il metodo scientifico, perché la statistica e la matematica sono molto difficili. Lo spiega meglio per chi non lo sa, Fabrizio. I piattisti è una sorta di associazione, setta, chiami come vuoi, che sono convinti che la Terra sia piatta, che sia tutto un grande disegno mistificatorio il fatto che la Terra sia rotonda. Nemmeno le foto li convincono. Sì, neanche le foto, prove sperimentali, ad esempio una prova molto semplice che uno può fare, si può dimostrare facilmente che se una cosa cade in linea retta verso la Terra, allora la Terra deve essere rotonda, ma questa spiegazione tramite matematica è banale per me, non è facile da dare alla gente comune. Secondo me, ma se basta che fanno un volo in aereo intercontinentale non la vedono la curva dell'orizzonte, cioè da 2000 metri si vede che l'orizzonte è rotondo. Lo so, però se cerca in internet molti hanno messo, come si chiama l'oggetto che usano i muratori, la bolla per vedere che l'orizzonte è piatto, ci sono molte foto del genere. Mettono la bolla dal finestrino dell'aereo e vedono che è dritto. Esatto, secondo me questo è un esempio, più bisogna insegnare alla gente a capire le fonti, a capire chi è uno scienziato con un'etica scientifica che sta lavorando controllato anche da altri scienziati rispetto a chi è un cialtrone. E io non riesco proprio a capire dov'è il complottismo di noi scienziati nel dire che la Terra è tonda, dove ci guadagniamo. Me viene da ridere. Ma io secondo me, come c'è l'insegnamento di religione, che è rispettabilissimo, è una scelta giusta, deve essere nelle scuole fra gli insegnamenti l'insegnamento di criteri scientifici, perché sin da bambini abbiano l'idea che è qualcosa che comunque che è una realtà, che non è un'invenzione, una mistificazione. E questo sorge necessario dal momento in cui tutti hanno uno spazio di libera espressione del proprio pensiero, che non grande conquista. Noi affascinati dalla cultura digitale abbiamo sempre detto che bello, tutti si possono esprimere, sì, ma il problema è che tutti dicono la loro, è difficile poi capire per chi nasce in questa epoca, chi usa questi strumenti, quale sia in realtà la giusta opinione su un fatto, su un evento, su una situazione. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, guardi, velocissimo, due esempi. L'esempio, il concetto dell'inquinamento va benissimo. Ogni giorno, per giustificare anche l'uso della tachipirina, del paracetamolo, vengo veramente bersagliato da scetticismi e persone che ti guardano già preventivamente con dubbio. E quale alternativa vorrebbero che lei prescrivesse? Poi la tachipirina uno se la compra. I farmaci omeopatici sicuramente. Se li comprino, se li fa bene questo. Sta scherzando. La libertà è bella, figuriamoci. Assolutamente, ma io non ho nulla da contro, anzi, io penso anche che i milioni di francesi che ne fanno uso non sono tutti stupidi, però dove volevo arrivare? Siamo diventati un popolo inquinato, perché secondo me? Perché non vediamo le malattie, non le vediamo più, le vediamo poco. E poi quello che diceva il professor Burioni, dice, giusto, non abbiamo più un bambino con il vaiolo, non vediamo morire un bambino di vaiolo, quindi pensiamo che sia tutta, che si curi con le noci e cose del genere, come è stato detto ultimamente a un consulente di un'amministrazione regionale riguardo ai vaccini, cioè, ma mangiare le noci cura lo stesso, anzi fa bene, capito? Certamente. No, dopodiché però quando poi nel mio ambulatorio arrivano i genitori e gli extracomunitari in generale, non per forza di alcune regioni del mondo, è la prima cosa che mi chiedono sono i vaccini. Perché sanno cosa sono le malattie, quelle gravi. Perfetto. E l'altra cosa che volevo dire e ci tenevo è questa. È una mia idea naturalmente, che ci sono alcune categorie tra cui metto i vegani, i vegetariani, che sono più propensi secondo me a questi soggetti secondo me sono più propensi a mettere in discussione tutto alla luce di non so che cosa, e non, è difficilissimo diciamo così sformarli. Però Vincenzo, dottore, quando entriamo in questo campo ormai, ne parlavo l'altro giorno, suscitando, entriamo in un campo religioso, è come dire a un credente cattolico non mangiare la carne nella settimana santa, o a dire a un ebreo non mangiare kasher, è la loro religione che dà quel tipo di indicazione, per il vegano ormai è una religione da quel tipo di indicazione, non può però diventare un precetto comune per tutta l'umanità, questo sì. Quello che a me, e finisco, mi indigna parecchio è la presunzione. Ecco, vengono con la presunzione e ti guardano come per dire ma tu che cosa capisci, che cosa hai letto, che cosa sai? E questo un po' perché poi dopo io devo fare quello che ho imparato e quello in cui credo, dopodiché le persone sono libere di potersi curare anche con i fiori di Bach, con tutto il rispetto per tutti fondamentalmente. Ecco, io l'unica cosa che dico è questo scetticismo, per cui sì, sicuramente bisogna partire da zero proprio, e quindi proprio dai bambini con l'educazione come dice lei. Niccolò Zancan, ti faccio un'ultima domanda, ma non trovi paradossale che persone che vengono da paesi probabilmente dove ancora magari esiste il culto animista, la prima cosa che chiedono è il vaccino, e plurilaureati da noi mettono in discussione il metodo scientifico che sta dietro il vaccino? Sì, mi chiedo se sia un male italiano in realtà o proprio legato a... Non so, mi viene quasi al tramonto dell'Occidente, forse. Sì, al tramonto dell'Occidente, una cosa di questo tipo, cioè mi rendo conto in tante tante storie che ormai dire 2 più 2 fa 4 non è, anche lavorando faticosamente per mettere insieme quel 2, quell'altro 2, per tirare le somme, cercando di essere precisi, accurati, spiegando in modo trasparente, non basta. Quindi a questo punto... Se la parola è in crisi, dobbiamo ritrovare altre forme di linguaggio, non so cosa dire. Sì, mi sembra proprio una scena da insofferenza, o anzi da sofferenza dell'Occidente in tramonto pieno. Sentiamo Massimo, velocemente, stiamo per chiudere. Allora, io sono di Torino, sono un veterinario e so per certo, perché alcuni colleghi usano l'omeopatia, che sugli animali l'omeopatia funziona, non funzionerà per curare le malattie infettive, ma funziona. Sugli animali funziona, sì, c'è un metodo scientifico che dà sì che dei risultati per cui sugli animali funziona, certo agli animali, certo, cioè non è dare il placebo agli animali mi sembra un po' paradossale, perché alla mucca quello che gli dai prende, alla fine non... comunque però è una pratica che si usa da quando esiste l'omeopatia, cioè non è una cosa... sì, dell'ultimo anno che si sono inventati così. Sì, sì, io conosco persone quando vedono le trecce nella criniera dei cavalli dicono che è stato le streghe il demonio, tutto esiste, chiaro. Sentiamo un attimo il professor Roberto Burioni sull'omeopatia che funziona per gli animali. Ma l'omeopatia ovviamente non contiene nulla, quindi non funziona. Il fatto che si usi da tanti anni non vuol dire che funzioni. Anche è acqua, diciamo che è acqua. Non... È acqua, appunto, quindi non c'è funzionare. Altro che acqua l'omeopatia. Dovremmo riscrivere la chimica se ci fossero delle evidenze che funziona. ma non ci sono, quindi la chimica è giusta. Mi permetta però che è stato centrato un punto molto importante, cioè questo nostro mondo dove ormai chi dice che 2 più 2 fa 4 non è uno che sa la matematica, ma è un servo al soldo delle lobby delle calcolatrici. Ecco, per la terra piatta, io ho visto quelle foto che sono bellissime, sono persone che mettono delle lunghe livelle su un treppiede, sì, all'orizzonte, le fotografe ne dicono: vedete, la terra non è curva, è piatta, il che fa sorridere, però queste persone l'hanno fatto pensando di aver fatto una cosa intelligente e giusta. Ecco, che è come, ma fa sorridere anche la gente che dice che vede le apparizioni ogni tanto, anche quello, sì, dovrebbe far sorridere, ma se è un istinto religioso io lo rispetto, perché ognuno ha diritto di salvaguardarsi l'anima come meglio crede e credere che esista l'anima, ma mi fa un po' ridere che viene portato come metodo scientifico. Ecco, quello che bisognerebbe fare, sarebbe auspicabile, è spiegare a quel signore che mette la livella, la fotografa e la pubblica su internet, che le cose sono un pochino più complicate di quello che lui pensa. Purtroppo, questa è veramente una deriva. Cioè, tutti pensano di poter fare tutto con internet. Si pensa che la lettura di Wikipedia possa sostituire lo studio di tanti anni, si pensa che la compulsazione episodica di Google possa dare a una persona la capacità di costruire un ponte, di difendere qualcuno in tribunale, oppure di stabilire l'efficacia di una medicina o la piattezza della terra. No, le cose sono un po' più complicate. Ecco, io penso che se noi riuscissimo a fare capire alle persone che semplicemente le cose sono un po' più complicate di come sembrano agli occhi di chi non è esperto e magari non si rende neanche conto di quanto poco è esperto, perché molto spesso le persone, insomma, poco avvedute non colgono la complessità delle cose, mentre chi sa quanto le cose sono difficili sa che quello che non ha studiato è meglio lasciarlo da parte. Ecco, questa forse è l'alfabetizzazione, fare capire che il metodo scientifico non è così immediato e che per capire se la Terra è tonda o piatta non basta una livella messa all'orizzonte. Questo diciamo, è una ricaduta dell'alfabetizzazione digitale che ancora nessuno aveva previsto. Tutti pensavamo 15 anni fa, 20 anni fa, quando si cominciava a vedere questo mondo parallelo cresceva, eravamo tutti entusiasti dello scambio dei saperi, nessuno aveva immaginato che in realtà il livello medio del sapere sarebbe appiattito verso il basso, verso la confusione, non verso l'eccellenza. Sentiamo Giuseppe velocemente, medico. È un medico lei, Giuseppe, no? Sì, sono un medico. Sì, no, io purtroppo sono arrivato tardi, quindi l'impianto generale della discussione di stamani, peraltro io mi diverto tantissimo a sentirla, lo vorrei come un amico lei, proprio Nicoletti. Facevo una considerazione sul fatto che quella cialtroneria imperante, che ora qualcuno si sente... Non ci fosse mai un'ascoltatrice che dice ti vorrei come amico, sempre ascoltatore. Comunque, va bene, sono contento. Dicevo, quello, per ritornare sul discorso che tutti si sentano autorizzati a prendere posizioni sui vaccini, su qualunque altra cosa anche se non hanno le competenze, secondo me deriva dal fatto, da una specie di deriva che si è venuta a creare, per cui ci rendiamo conto, io nell'attività che ho fatto per 40 anni mi sono reso conto che non è che ho avuto sempre dei personaggi che sono stati messi, persone giuste al posto giusto, quindi si è generata una specie di sfiducia nei confronti di quelle che possono essere, che prima, no, anni fa non nessuno avrebbe mai potuto mettere in discussione. Giuseppe, lo dice a me quando ci sono delle regioni che passano ancora trattamenti per l'autismo basati su credenze parareligiose, a me me lo viene a dire, lo so benissimo, vado a parlare alle ASL, vado a parlare alle regioni, ti dicono no, questo è il metodo giusto. È così, purtroppo è così. Ma il problema è la cialtroneria, perché se metti le persone giuste nei posti giusti, ma solo che la politica purtroppo ha come un rullo compressore praticamente che cosa ha scombinato completamente le regole del gioco. Mio padre, che è morto purtroppo del 24, è un ammiraglio in pensione, e quando si parlava chiuda, di se no un... ci seguono. Chiuda, che stiamo chiudendo la sigla, non c'è più tempo. Suo padre, perfetto, che diceva? Dica la parola a suo padre, almeno questa. No, diceva, non si metteva mai in discussione uno che era un magistrato, non si metteva esattamente quello che ha detto Niccolò Zancan. Ringrazio Niccolò Zancan, ringrazio il professor Roberto Burioni, ringrazio tutti, ci abbiamo provato anche questa volta, ci proveremo sempre. Alla prossima.